Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto e ancora benvenuto all'appuntamento con Europa 24. Allora, partiamo da una buona notizia, la buona notizia forse una delle poche, diciamo, nel quadro politico dell'Europa di oggi. La buona notizia è che è stato raggiunto a Bruxelles un accordo tra Belgrado e Pristina. Naturalmente il tema è il Kosovo. Il premier serbo Aleksandar Vučić e il premier kosovaro Isa Mustafa hanno raggiunto dunque un accordo su giustizia e magistratura in Kosovo, che hanno poi aggiunto l'intenzione di lavorare insieme per affrontare il problema regionale dell'immigrazione illegale dal Kosovo. Così il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha la sua prima prova da facilitatore tra le parti in una nota al termine del primo round del dialogo ad alto livello tra Pristina e Belgrado. Dicevamo, una buona notizia, purtroppo non ce ne sono molte altre. I fronti aperti sono quello dell'Ucraina, ne parliamo ampiamente nei nostri giornali radio. Come sapete c'è l'attesa dunque per l'incontro dei capi dei vertici, di fatto del cosiddetto modello normanno, in sostanza quattro esponenti di alto livello per cercare di trovare a Minsk appunto domani un accordo sulla guerra in Ucraina, che ormai va avanti da più di 9 mesi, che ha causato più di 5.500 vittime civili confermate, ma c'è un'ampia zona grigia o addirittura scura intorno a questo conflitto, che, lo ricordo, riguarda ormai quella sorta di mini stato con una frontiera di 300 chilometri con l'Ucraina. Quindi staremo a vedere. Altro tema caldo, tema che ha anche contribuito un po' a raffreddare in alcuni momenti, anche a congelare le borse, è quello greco. Altro comunicato questa mattina che arriva proprio dal portavoce della Commissione europea, dice: non esiste al momento un piano di 10 punti della Commissione come era trapelato. Attualmente sono in corso molti contatti, tra i quali i contatti diretti tra il presidente Juncker, presidente della Commissione, e il premier greco Tsipras, così dunque il portavoce dell'esecutivo, che ha aggiunto: il solo vero piano che abbiamo è quello di fare restare la Grecia nell'eurozona. Ancora una notizia che ci riporta proprio all'attualità italiana. Questa mattina abbiamo raccontato in apertura del nuovo dramma della migrazione nel canale di Sicilia. Come sapete, il programma europeo Triton ha preso il cambio, diciamo, di quello italiano Mare Nostrum. Questa notte un ennesimo disastro, persone che muoiono di freddo in mare, e su questo interviene il commissario UE all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Dice: è in corso un dramma, ma la nostra lotta contro i trafficanti continua in modo costante e coordinato, ma dobbiamo fare di più. Davvero c'è la sensazione che si debba fare di più e che la risposta, diciamo, europea al cambio che viene dato alla Marina e alle forze italiane non sia all'altezza dell'aspettativa. Un'ultima notizia invece che ci parla di evasione ed elusione fiscale. Come sapete, lo scandalo Swiss Leaks, anche questo in primo piano nei nostri giornali radio, ha un lato europeo, ne ha parlato Sandro Gozi, dunque il responsabile sottosegretario degli affari europei del governo italiano. Ovviamente, dice, il punto della lotta all'evasione e all'elusione fiscale all'interno dell'UE ed anche nei rapporti con i paesi importanti come la Svizzera è assolutamente fondamentale. Così Gozi risponde a chi chiede se siano necessarie nuove iniziative europee alla luce dello scandalo Swiss Leak, e Gozi aggiunge: durante il nostro semestre, quello appena concluso, abbiamo fatto alcuni importanti passi avanti. Dobbiamo oggi farne una priorità di tutta la nuova legislatura europea. Bene, con questa notizia chiudiamo questo appuntamento. Naturalmente Europa 24 la ritrovate questa sera intorno alle 9:30 e da parte mia un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.